Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. In molte località del Veneto in questi giorni si è festeggiata la festa di San Martino, una ricorrenza molto importante nel mondo agricolo perché segnava la fine dell'anno agrario, ma anche un momento di particolare apprensione perché c'era da rinegoziare i contratti, da vedere un po' che cosa si sarebbe fatto, da pianificare l'anno successivo, e comunque anche un momento di particolare festa. È uno dei momenti quindi più attesi e più importanti per il mondo contadino, di cui si ricordano forse soprattutto i nostri nonni, perché si è perso ormai con le nostre generazioni il significato. Proprio per cercare di recuperare il valore, insomma, di avere di fare memoria di questa festa, abbiamo pensato di parlarne oggi con una persona che ha 85 anni e che ha fatto il contadino per tutta quanta la sua vita. Ecco, il signor Andrea, che però chiede di non dire il suo cognome, il luogo dove ha lavorato, che è comunque nel Padovano. Signor Andrea, che cosa significa per lei proprio ricordare il San Martino? San Martino si finiva un'annata agraria e se ne cominciava un'altra. E difatti si diceva, da San Martino ogni buon mosto diventa vino. E allora c'era questo, no, ufficiale, è proprio cosa ufficiale, di San Martino, e veniva a creare nuovi contratti, nuove assunzioni, nuovi acquisti, ma erano sempre in funzione all'azienda, quella piccola azienda che c'era o grande, che veniva per potenziare l'anno che veniva. Si aveva seminato il grano, il frumento, e si aspettava, non c'era altri raccolti, come che poi è venuto fuori che si faceva l'erbaio per le mucche, per questo, allora si c'era solo San Martino e il frumento. Naturalmente il frumento poi veniva, si buttava il nitrato di calcio due o tre volte quando la terra era ghiacciata a mano, si buttava via sui 20 kg di nitrato di calcio per campo, tre volte ogni 20 giorni, da gennaio a febbraio, e poi quello era l'ultimo cosa, e dopo il frumento si andava a mietere. Mentre altre cose, ecco, c'erano le vigne da potare, c'erano tutte le siepi, perché adesso ne vede più siepi, chi va su? Per esempio io si faceva la gara per andare sopra le piante più alte che si poteva, le rubini e le case. Allora si aveva 15, 16, 17 anni. No? Ma adesso mio figlio dice, se ho preso una paura una volta sul tetto buttando via, domenica scavo e basta. Senta, però San Martino finiva l'anno e quindi era anche un momento anche un po' difficile, perché bisognava fare i conti e saldare i pagamenti, e c'era anche il rischio di trovarsi chi non poteva saldare l'anno dopo senza terreni. Sì, senz'altro, chi non pagava, perché gli acquisti andavano fatti sempre in contanti al momento dell'acquisto, non c'erano l'affitto che doveva essere pagato in due rate, a giugno e a San Martino, e veniva, era quello che consolidava la rimanenza nell'azienda dove si viveva, dove si era. L'azienda, la rata di giugno, 31 luglio, ricordo che mio zio faceva l'assicuratore e venivano a assicurare il frumento contro la grandine, perché se non c'era, se prendevano la grandine non potevano trabiare, perdevano il coso, erano sicuri che non si andava via, certo. Perché non c'era, allora non c'era indennità di lavoro, non c'era, qui avevamo tre muratori e uno andava anche in Germania, del resto si lavorava tutti, si aiutava, quando c'era che le cose, le mucche partorivano, si andava di notte a chiamare uno o l'altro, perché allora si aveva una qualità di bestiame da tiro, erano triplici attitudini, da carne, da latte e da lavoro, però era più da lavoro che per la rattura e altre. Quando non si va un vitello, che si va a sentire di lo stesso, bisognava avere che ci fosse del personale, e allora si andava a chiamare Tizio, Caio, invece con la pesata nera partoriscono da solo, perché è un vitellino. E allora il coso di San Martino era talmente una, per chi non aveva cosa, era qualcosa di quello che dicevo, il coso che detto, non ti avevo muso duro, te mi scagli a pagare di San Martino, perché volevo venire andare via, rompere il contratto. Voleva dire che appunto si finiva e si rischiava di rimanere senza lavoro e anche senza casa, prendere i propri bagagli e partire. Perché allora c'erano le varie piccole proprietà, non proprietarie, ma forse c'erano delle piccole proprietà, sì, ma quelle in affitto, uno non poteva avere tante cose, e succedeva che in questi casi erano quelli più danneggiati di non avere la possibilità di pagare. Ecco, ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sono facile da accontentare. Tutto quello che mi serve è qui, tra le mani vuote, una 24 ore, dove tengo me e le cose di valore. Non è facile da sopportare, la morale dice, la coscienza sa. Chiudo gli occhi e il mondo fuori per sentire come corre l'aria, come scorre il mare. Facile da conquistare, credo ancora all'incantesimo, tra le stelle Dio e tra le persone, ma mi manca l'aria come mi manca il mare. Chiama, che ti ama. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Stiamo parlando con il signor Andrea, che ci sta raccontando un po' com'era il San Martino di una volta. Ecco, il San Martino quindi significava il cambio dell'annata e si andava verso l'inverno, non significava che non si lavorava più fino alla primavera. Quali erano i lavori che iniziavano da San Martino? Da San Martino si cominciava a rastrellare le foglie per via di fare il letto, fare le cose per le mucche, per la stalla. Rastrellato si cominciava a fare le siepi. C'erano le siepi giovani, che bisognava fare la selezione delle cose, e le siepi da 3 anni, o 4 o 3 anni, che venivano tagliati i pali, che potevano servire per... c'era per i vigneti, si faceva... E c'era più di tutto, allora si faceva l'acacia, la robinia, perché avere pali che duravano di più, perché altrimenti bisognava comprare i pali di castagna. Fatto le siepi, si cominciava a febbraio, si cominciava siepi e potatura delle vigne. E si andava avanti fino a aprile le potature, perché c'era la possibilità, le vigne... A sacca, diciamo, cioè erano dal tronco, venivano messe a orizzontali su un filo di ferro, magari con un altro, mentre il silvo erano cosiddette a raggio, cioè una vigna, un palo, due vigne, e giravano i tralci. Allora succedeva che a marzo il vento, i tralci si potevano rompere, in aprile cominciavano a germogliare, si voltavano via e si lavorava. E poi naturalmente c'era la pulitura di fossi, o anche si poteva stare anche se faceva freddo, si stava in stalla. Sì, anche riposarsi insomma un pochino. Ecco, come San Martino però non era solamente una questione di lavoro, di pagamenti, si faceva anche festa. Beh, San Martino era festa. La fiera di Piazzola sul Brenta, allora una volta le fiere erano, si vendevano oltre al bestiame, mucche e altre cose, i puledri che erano nati in quell'anno, che non erano andati venduti alla fiera del Socco del primo lunedì dell'8 settembre. Chi non riusciva a venderli, andavano venduti a Piazzola, e a Piazzola c'era un'immensità di bestiame, di cose, e di gente che siamo andati varie volte a Piazzola. Poi cominciamo. E la macellazione dei maiali? Ecco, d'inverno, che questa era la macellazione dei maiali, questa era una cosa. Quando cominciava il freddo, che allora il maiale andava macellato e poi rimaneva appeso nella cantina per 2 giorni. Qui da noi, sull'Alto Vicentino, macellavano e facevano i salami. Nel Vicentino, qui invece si faceva i salami, e poi c'era la cena dei salami. Era una grande cena, perché si venivano invitati i parenti più stretti e qualche amico. E ricordo veniva fatto 20 di persone. E allora cosa andava fatto? Allora non c'era antipasti. Andava fatto il risotto col brodo delle ossa dei maiale e la carne tritata di salame. Andava fatto questo risotto, che era qualcosa di una bomba. Poi andavano mangiato le ossa di maiale, e poi c'era il pollo arrosto. Il pollo arrosto e il vino, e allora andava bevuto, che allora tutti si imbottigliava vino. E allora si andava a prendere quel tipo di vino che diceva: ragazzi, mi porti qui in Malvasia, o l'Aleatico, o il Barbera. E si portava, naturalmente si faceva a mezzanotte, e andavano via altissimi, perché divino. Una vera festa. Era una gran festa. Il San Martino era una gran festa. perché era una festa laica, si può dire, non era perché battesimo per matrimonio o cosa, si può dire che era solo la festa dei contadini. Grazie signor Andrea per questi ricordi. Abbiamo tempo adesso per alcune brevi notizie. Partiamo dal vino, perché la scorsa settimana abbiamo parlato dei problemi della vendemmia 2014. Questa settimana è arrivata la conferma che anche sul fronte dei prezzi c'è stato un calo sensibile nel valore delle uve. La media calcolata da Veneto Agricoltura per tutte le tipologie di uva quotate presso le borse merci risulta in calo del 6% rispetto al 2013, che già a sua volta era cedente dopo 3 anni di incrementi. Vanno bene solo le uve Glera da IGT e da Prosecco di OCG, il Recioto, l'Amarone e i Rossi di OCC dei Colli Euganei. Ribasso intorno al 30% addirittura per le uve Pinot Grigio in tutte le principali province. Il calo più evidente lo si osserva a Treviso con il meno 8% nella media, mentre a Verona la flessione è del 6% e a Padova del 4%. Si tiene venerdì 14 novembre a Trento, nella sala Belli della sede della provincia autonoma, dalle 8.30 alle 13, la quinta edizione del convegno Dolomiti, un patrimonio mondiale in casa nostra. L'obiettivo principale di quest'anno è riflettere sulle potenzialità del riconoscimento dell'UNESCO alle Dolomiti e sui vincoli e le possibilità della sua valorizzazione, perché questo riconoscimento costituisca un'opportunità effettiva per le comunità residenti. Durante l'incontro saranno presentati i risultati della ricerca L'accreditamento Dolomiti UNESCO, percezioni, significati e potenzialità tra presente e futuro, realizzata dagli allievi della seconda edizione del Master World Natural Heritage Management. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. L'ultima notizia culinaria: si tiene sempre venerdì 14 novembre al ristorante Antico Brolo di Corso Milano a Padova l'ultima cena di selezione nel padovano del Festival Triveneto del Baccalà, la manifestazione che si prefigge di trovare un nuovo approccio a un pesce della tradizione, mettendo alla prova la maestria e la creatività di una trentina di chef del Nord-Est. I commensali di questa cena saranno chiamati a eleggere il piatto considerato più buono e innovativo che concorrerà al festival, la cui finale è prevista il 3 dicembre. Con questa occasione il ristorante Antico Brolo inserirà stabilmente tra le proprie proposte, come annunciato dal patron Mario Di Natale, un menù fisso tutto a base di baccalà dall'antipasto ai primi e ai secondi, con ricette originali create dallo chef Massimo Taglioli. Maggiori informazioni sul festival si trova sul sito internet www.festivaldelbaccalà.it. Noi vi diamo appuntamento invece la prossima settimana con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.